Soft peanuts, soft peanuts. Soft peanuts, soft peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console Sandro e Alfredo. Benvenuti anche a questa puntata di Salt Peanuts, che va a indagare in diverse produzioni dell'ECM, questa storica, ormai quasi leader in casa, produttrice-distributrice di CD, che dai lontanissimi tempi dei primi fortunatissimi dischi riccheggiati come il Cole Concert degli anni 70, poco a poco ha costruito un catalogo e un arco di musiche trattate davvero impressionante, sempre in qualche modo marchiate, tra virgolette, con quel timbro tipico delle CM, così brillante, così un po' anche impressionista malinconico. E Martin Eicher, il patron delle CM, spesso poi orizzonta la sua produzione discografica in quel crucicchio che vede musiche contemporanee, musiche jazz e musiche folcloriche, così in un crossroads che evoca delle immagini locali in un linguaggio colto. È il caso per esempio di questa prima produzione, che si chiama Eight Winds, disco capitanato da Socrates Sinopoulos alla lira. La lira è questo strumento, una sorta di violino più grosso, da un suono molto malinconico, di cose perdute, che ben si inserisce in questo progetto di Crossroads. Con Socrates Sinopoulos, altri musicisti ellenici, infatti il disco è stato registrato nel 2014 proprio nella capitale Atene. Quindi abbiamo Jan Kerim al pianoforte, Dimitris Kouras al basso e Dimitris Emmanuel alla batteria. Una formazione, a parte l'ovvia presenza così in qualche modo molto marcata e diversa della lira, basso, piano, batteria molto jazzistica. Però sentirete l'atmosfera che si va a costruire in questo Yerma, ci riporta in sapori perduti. Thank you. Socratis Sinopoulos a questo violino lira, Jan Kerim al piano, Dimitris Sekouras al basso e Dimitris Emanuela alla batteria in questo Yerma che ha quasi un sapore forse addirittura di colonna sonora in questo incrocio tra linguaggi jazzistici, linguaggi di classicità e linguaggi folclorici. Ma sarebbe inutile, come si diceva prima, forse cercare una unità stilistica nella produzione ECM che ritrova l'omogeneità nel modo in cui tratta i suoni. Un catalogo, diciamo, vastissimo, da cui prendiamo una seconda produzione. L'album è Surrounded by the Sea. Lui è Andy Shepard, che è un tenore, nonché sopranista di vaglia inglese, che ha molte primavere artistiche sulle spalle, produzioni anche importanti. Ultimamente lo si trova spesso a fianco della nostra brava pianista Rita Marco Tulli, ed è un musicista che ha sicuramente una capacità di fraseggio e una certa intuizione anche timbrica. Tra l'altro è un personaggio molto impegnato, si direbbe, nel sociale. Lui capitana per la città di Edimburgo un'operazione musicale d'ampio raggio, quella dei 300 sassofoni, ovvero sia costruisce delle istituzioni di grande orchestra per aspiranti sassofonisti, dai più bravi ai meno bravi, da quelli più esperti a quelli che sono già ancora all'ABC, dai bambini agli anziani, insomma un grande dopolavoro sassofonista, potremmo dire, che però raggiunge dei livelli anche artistici più che decorosi, soprattutto mette insieme persone diverse, età diverse, linguaggi diversi, e come dire, crea un passatempo più che intelligente. Poi va da sé che quando hai a che fare con centinaia e centinaia negli anni di giovani aspiranti o non meno giovani aspiranti musicisti, è chiaro che tra i tanti è più facile che nasca anche il campione. Ma al di là di questa sua esperienza sul campo, che ha fatto girare anche diverse città inglesi, qui lo ritroviamo in Dishep con Elvin Arset alla chitarra, Michel Benita double bass, cioè elettrico e contrabbasso, e Sebastian Rockford alla batteria. Sentiamo come in qualche modo viene ammanito questo brano d'apertura dell'album che si chiama, ricordo, Surrounded by Sea. Il pezzo si chiama Tipping Point. Thank you. E questo era il quartetto di Andy Schepper, in questo tripping point tratto dall'album Surrounded by Sea. Il quartetto vedeva, oltre a Schepper al tenore, Arset alla chitarra, Michael Benita al basso e Sebastian Rockford alla batteria. Dicevamo che il trade union, forse della produzione, in cui in qualche modo cerca l'esprit dei CM, è la malinconia, in particolare è l'evocazione. Questo esiste anche in questo trio italo-svizzero, che produce per l'etichetta di Manfred Eicher questo Third Reel. Lui è Nicola Masson, affiancato a Roberto Pianca e a Emanuele Maniscalco, ovvero sia Masson al tenore e al clarinetto. Molto spesso si esibisce sulle aree quasi inizio secolo del clarinetto, Roberto Pianca alla chitarra e Emanuele Maniscalco alla batteria. Le note di copertine dicono in qualche modo sono tre writers, così vengono definiti, che dipingono musicalmente sulla tavolozza le note insieme, creando quindi questo unisono che molto spesso porta a quasi delle canzoni. Ecco, da questo album Third Reel ascoltiamo Sparrow, questa freccia composta da Nicola stesso Masson. Thank you. Thrill the Real, questa produzione CM di tre musicisti: Nicolas Masson, l'abbiamo sentito prima al tenore, poi abbiamo aggiunto un brano anche al clarinetto, Roberto Pianca chitarra, Emanuele Maniscalco alla batteria. Questa era la prima parte del nostro Salpinaz, un breve stacco musicale, poi torneremo con altre produzioni del vastissimo catalogo ECM. A risentirci tra qualche minuto. Riprendiamo dunque Salpinaz e riprendiamo questo filo legato alle produzioni ECM. Altro personaggio assai conosciuto è il bassista Gary Peacock, che abbiamo visto in mille avventure con musicisti del calibro quali Paul Blake, per esempio, solo per citarne uno. Qui troviamo invece un altro trio, e anche qui abbiamo signori musicisti in una sorta di parterre de roi musicale. Now This è il nome dell'album, che presenta una copertina direi intestellare, che perde la musica nel profondo cielo astrale. E il trio vede Gary Peacock naturalmente sia al basso elettrico che al contrabbasso, Mark Copland al pianoforte e Joe Byron alla batteria. Quindi c'è questo ensemble di un trio di primo valore. Gary Peacock, che sicuramente è uno di quelli che si possono considerare degli eredi di quel genere musicale che potremmo far risalire al contrabbasso a Scott LaFaro. Ancora una volta la produzione CM ci gioca su queste atmosfere intriganti che poco a poco ti attirano a sé fino a conquistarti in questa ipnosi musicale. E allora, solo per dare un assaggio di questo Now This del trio di Gary Peacock, andiamo a ascoltare Gaia. Thank you. E questo era il delicatissimo Gaia, che nasceva dalla collaborazione del trio con Gary Peacock al basso, Mark Hoplan al piano e Joe Byron alla percussione. L'album, sempre targato ovviamente ICM, che è l'argomento della nostra trasmissione, è Now This. Passiamo invece a una cosa un po' diversa, che è più su un versante sicuramente da recital solistico, perché è solo violino di Dominique Pifarelli, musicista d'Oltralpe francese che nasce all'interno di quel così crogiuolo che era la scuola di Lione. Più volte l'abbiamo ascoltato inizialmente anche al seguito di Louis Clavy in album mitici come Ottomano o altri. Poi l'abbiamo visto anche in altri contesti, per esempio al dirigere orchestre, grandi orchestre che eseguivano le sue partiture. Qui la situazione è assolutamente l'opposta e questa produzione ECM ci dà appunto la versione per violino solo. Il violino di Pifarelli è un violino molto acido, per quanto improntato a una forte formazione classica. Time Before and Time After, dice l'album presentandosi, e noi ascoltiamo due momenti di questo violino solo di Dominique Pifarelli, Sur Terre e Mercer Elastico. Thank you. violino solo di Dominique Pifarelli, tratto da questo album Time Before and then Time After del violinista francese. Ma due produzioni per chiudere italiane importanti. Uno è uno dei decani della musica jazz italiana, lui è Enrico Rava, trombettista di chiara fama, che si attornia di ragazzi o meno ragazzi, comunque nuove forze importanti della nostra musica jazz, come Francesco Diodati alla chitarra, Gabriele Evangelista al basso, Enrico Morello alla batteria e Gianluca Petrella alla trombone, che è un po' il guest star. Petrella ultimamente sta vivendo un'aurea d'oro, un'epoca d'oro della sua maturità artistica. Rava, ricordiamolo, inizia proprio già alla fine degli anni 60 sulle orme di un divisismo. My Bish Brew di Miles Davis in qualche modo dominava i trombettisti in particolare, poi sceglie una sua strada utilizzando questo bellissimo timbro della tromba così aperto, sparato, che lo porta anche per esempio nel tempo a reinterpretare classiche canzoni come Parlami d'amore Mario, oppure a reinterpretare opere, una tradizione melomane riscritta per ambienti jazzistici. Poi appunto frequenta anche situazioni più classicamente jazzistiche come quelle che andiamo a ascoltare in questo album che presentiamo, che è Wild Dance, alla danza selvaggia, ed è un'informazione che abbiamo avuto modo di ascoltare sul palco dell'Aquila di fronte a un grande pubblico che partecipava a questa maratona jazz per la ricostruzione della città abruzzese. Abbiamo visto un Rava con i lucciconi agli occhi per la presenza in questa città che in qualche modo è stata così ferita, e la presenza soprattutto di tanto pubblico che ha voglia di jazz ma anche di tornare a vivere. Ma qui lo ascoltiamo in due momenti del suo ultimo disco, questa Danza Selvaggia, che dà anche il nome al brano che ascoltiamo, a cui seguirà anche questo Don't, due pezzi a firma proprio di Enrico Rava. Thank you. Prima Wild Dance e poi Dante, tratto da questo album della compagnia di Rico Rava, che appunto, come il brano, si chiama Wild Dance. Rico Rava la tromba, Francesco Diodati la chitarra, Gabriele Evangelista al basso, Enrico Morera la batteria e l'ottimo Gianluca Petrella al trombone. E per chiudere andiamo a un ispiratissimo pianista italiano che ci dà questa produzione che è importante, In the Morning, che è il titolo dell'album, sempre CM ovviamente, ma anche poi anche il brano d'abbrivio, di attacco. Stefano Battaglia al pianoforte, Salvatore Maiore al basso, Roberto Dani alla batteria e ancora una volta perfettamente inquadrato nell'epos della ECM, questo così momento quasi autunnale, una sera musicale che viene dipinta benissimo con la attenta e delicata tastiera di Battaglia. Ascoltiamo, naturalmente il tempo stringe, quindi ci salutiamo adesso e appuntamento è sempre quello, lunedì prossimo alle 20. Ciao a tutti.